America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero, ai microfoni di America 24 abbiamo oggi Oscar Farinetti, una nostra vecchia conoscenza. Abbiamo parlato con Oscar quando lanciò Italy, che fu una piccola rivoluzione gastronomica italiana qui a New York. Ebbene, adesso Oscar Farinetti se n'è inventata un'altra. È arrivato in America partendo da Genova, facendo una traversata atlantica molto di sapore gastronomico. Pensate, la barca si chiama I Love Barolo Grana Padano. Ma non c'è solo un risvolto gastronomico, c'è anche l'idea di viaggiare in mezzo al mare, in mezzo all'Oceano Atlantico, con intellettuali, scrittori, cantanti, con una serie di personaggi italiani, anche per parlare dell'Italia e delle sfide che in qualche modo ci attendono. Buongiorno Oscar. Buongiorno, ti sento benissimo. Allora, raccontaci intanto com'è andato questo viaggio. Avete avuto tempesta? Eh beh sì, una bella sberletta l'abbiamo presa. Una in Mediterraneo, nel famigerato Golfo del Leone, avevamo un mare forse 7-8 con delle belle onde e abbiamo ballato un po', e poi ne abbiamo beccata un'altra nell'oceano con un mare addirittura superiore, avevamo onde di 6 metri, la barca molto inclinata, e ti confesso che ho tremato. Abbiamo sempre avuto il vento di traverso da dietro, una cosa incredibile. Soldini non credeva ai suoi occhi. Quanti giorni ci avete messo? Guarda, noi siamo partiti da Genova il 25 aprile, poi siamo arrivati il 10 maggio a Madeira, che era l'ultimo, chiamiamolo, avamposto del vecchio mondo, insomma, no? E poi in 15-16 giorni abbiamo attraversato l'oceano. Oscar, senti, dacci un po' di sensazione, cosa significa essere su una barca a vela in mezzo all'Oceano Atlantico, attraversarlo magari con l'aiuto di un po' di barolo? Insomma, come è stato questo viaggio? Una meraviglia, direi probabilmente la più grande esperienza della mia vita. Ci siamo ritrovati veramente soli in mezzo al mare, sai, quando ti guardi intorno e per 20 giorni non vedi niente all'orizzonte. Ma è stata una meraviglia per l'armonia che è regnato su quella barca, in tutte le quattro tappe è stata un'esperienza meravigliosa. E ci ha aiutato molto due cose. Una è la buona alimentazione che avevamo, malgrado il fatto, non so se lo sai, che ci eravamo dato un target molto limitato, non potevamo mangiare più di 4,50 € di costo food a testa, perché non ci sembrava serio nel momento in cui, insomma, sta girando il pianeta, il mondo, andare a gozzovigliare. Abbiamo mangiato cose buonissime ma in poche quantità, e oltre a questo ci ha aiutato molto il fatto di doverci concentrare su che cosa avremmo fatto noi per il nostro paese. Abbiamo fatto un grande esperimento. Abbiamo pensato che è arrivato il momento che anche noi, non politici, ci fermiamo un attimo a dare. Quindi l'idea è stata questa: smettiamola di protestare, smettiamola di lamentarci e proviamo a scrivere insieme che cosa faremmo noi. Dunque Oscar, tu sai che noi abbiamo parlato anche con Baricco, con Faletti, che hanno partecipato alle prime tappe, però tu adesso hai la testimonianza anche di altri 25 personaggi che hanno partecipato a questa traversata con te, e ognuno di loro doveva dare un contributo. A questo punto il quadro è completo. Questo pomeriggio tu farai il tuo ingresso ufficiale nel porto di New York, farai un attracco a Chelsea Piers, presenterai questo volume con queste mosse, 7 mosse proposte per riforme politiche in Italia al console generale, che poi le trasmetterà al Presidente della Repubblica. Dunque parliamo un po' di queste idee, le idee che sono venute fuori da questo dibattito con i personaggi che sono venuti con te per mare. Guarda, la prima mossa si intitola Meno politici, più politica, una serie di accorgimenti attraverso i quali, secondo noi, porteremo nuovamente nelle posizioni chiave i cosiddetti migliori. E quindi occorrono due cose: occorre una riforma elettorale forte che diminuisca il numero dei parlamentari, che ne diminuisca fortemente i privilegi, perché abbiamo esagerato un po' nel nostro paese, che ne diminuisca il numero e che ne diminuisca anche i vari istituti. Abbiamo immaginato un sistema di governo più semplice su 3 livelli, e quindi il governo nazionale, le regioni e i comuni. Dopodiché abbiamo immaginato un percorso limitato per chi fa la politica, soltanto 15 anni, quindi 3 legislature al massimo, 2 legislature al massimo per le posizioni più importanti. Quindi l'idea è quella di tornare alla politica come missione, come passione, in maniera che le persone migliori ci vadano e se fanno bene rimangono e per 15 anni fanno quel mestiere, altrimenti se sbagliano tornano a casa, è una roba piuttosto semplice. Ecco, scusa, ti interrompo, dal punto di vista della riforma elettorale, l'idea dovrebbe essere, immagino, che il candidato parta dal basso e dunque sia scelto dal suo collegio elettorale, che risponda al suo collegio elettorale, invece che essere nominato dall'alto. Ecco, la vostra posizione qual è? Perché in America, naturalmente, il candidato risponde alla base elettorale, è indipendente, abbiamo un partito leggero, non abbiamo un partito pesante. E dunque voi come vi posizionate? Noi riteniamo uno scandalo enorme l'attuale sistema elettorale, perché alla fine fa veramente dirigere il paese da poche persone che sono in capo i partiti. Quindi assolutamente tornare alle preferenze, assolutamente tornare ai partiti leggeri, anche se il ruolo del partito è fondamentale. Il partito politico è uno dei momenti fondamentali della democrazia. Ecco, vediamo quali sono le altre proposte di riforma, le altre proposte parte di queste sette mosse. Prima cosa, eliminare gli sprechi. Poi abbiamo una mossa dedicata alla laicità dello Stato. Una mossa dedicata alla sburocratizzazione di questo paese. Noi riteniamo un vero cancro dell'Italia la troppa burocrazia, quindi il processo di semplificazione. Una mossa è dedicata all'esercito e alle guerre, e si intitola meno bombe, più diplomazia. C'è un ruolo centrale della scuola. Noi riteniamo che la scuola italiana debba cambiare profondamente, deve avere proprio un ruolo centrale, non solo nell'educazione delle nuove generazioni, ma facendo in maniera che le nuove generazioni, tornate a casa dalla scuola, educhino anche dai grandi. Infine c'è la mossa centrale, che si intitola meno invocazioni, più vocazioni, e che dice sostanzialmente che l'Italia si deve concentrare sulle sei grandi vocazioni che ha, investire in questo campo e lavorarci sopra pesantemente con una visione molto moderna, mettendo a capo di ognuna di queste vocazioni, che come puoi immaginare sono il turismo, la moda, il design, l'agroalimentare, l'industria manufatturiera di precisione, la logistica, che metta a capo di ognuno di questi settori il migliore del paese, cioè persone di grande competenza. Ma la cosa che mi ha incuriosito, l'ho chiesto anche agli altri, ma qual è l'attrazione che lega i piemontesi al mare? Il mare vicino non è lontano, il Piemonte è a due passi, si chiama Liguria. La Liguria per noi è un pezzo di Piemonte, insomma. Abbiamo la fortuna di avere a due passi la regione che forse ha il miglior microclima in Europa, io dico al mondo, dove quindi non fa troppo freddo, non fa troppo caldo, tant'è che nella Liguria nascono dei prodotti incredibili. Un'ultima cosa, quando siete entrati nel porto di New York e avete visto la Statua della Libertà, ecco, che sensazione c'è stata? È stata la seconda grandissima emozione di questo viaggio nel rapporto mare-terra. La prima, ti giuro, è stata di Gibilterra. Quando è apparsa dalla nebbia la rocca di Gibilterra, abbiamo visto le colonne d'Ercole e quindi emozione immensa. La seconda, mentre eravamo tra la Statua della Libertà e lo skyline di New York, ci ha mollato la nebbia, perché è stranissimo, c'era una nebbia enorme all'ingresso di New York, la nebbia è calata di colpo, ci siamo trovati a sinistra la Statua della Libertà, verso destra, a sud e a destra lo skyline di New York, e siamo rimasti di stucco. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. È morto all'età di 62 anni il cantautore poeta Gil Scott Heron, e quindi dedichiamo a lui la canzone del giorno, uno dei più grandi successi, The Revolution Will Not Be Televised. You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials, because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be televised.